24 mattino. Guarda che se non mi dici dove è andata la signora, io ti licenzio. Ma chi? Ma chi licenzia licenzia? Ah, ma non avete capito niente. Guardate che qua se c'è una persona che è stata licenziata, siete voi, nonni. Meglio che ve lo stampate qua, eh. Ma voleva licenziare pure, eh già. Ah, signore, se è andata a pigliare una boccata d'ossigeno e ha fatto buona. Golf e badanti, le avevate licenziate magari 15 anni fa e adesso arriva qualcuno e vi chiede la cartella pazza, vi dice: sono l'INPS, scusa, ma tu non l'hai licenziata, dov'è la raccomandata di licenziamento del 2001, del 1999? Non c'è, e allora dammi 10.000 euro. Signori, lo avevate raccontato qui tra le telefonate, diversi messaggi ieri e la notizia è affiorata sui giornali. Sì, perché sostanzialmente si è creato un pasticcio all'INPS su colf e badanti e in arrivo, niente meno, restate fermi lì, ci sarebbero 200.000 cartelle pazze. Sul giornale a pagina 12 Francesca Angeli ci racconta che cosa è successo. Migliaia di cartelle pazze gettano nel panico ingiustamente le famiglie italiane. In tutta Italia sono 214.000, non 214, 214.000 gli avvisi di accertamento spediti dall'INPS per errore con la richiesta di pagare contributi per i domestici, per le colf, per le badanti che in realtà non sarebbero dovuti. A Milano ne sono già stati consegnati migliaia e da un paio di giorni hanno cominciato ad arrivare anche a Roma. In alcuni casi, udite udite, Francesca Angeli, il giornale, pagina 12, vengono richiesti cifre astronomiche, fino a 10-12 mila euro, e per un anziano con pensione sociale ricevere una cartella con simili importi rappresenta un vero e proprio shock, devo dire anche per gli altri. Importante quindi chiarire subito che si tratta di un madornale errore dell'INPS che non ha aggiornato i suoi archivi. Ma cosa è successo? Che brava l'Angeli, come spiega bene. A spiegare come l'INPS abbia preso la cantonata, a suggerire la soluzione per le famiglie preoccupate, Teresa Benvenuto, segretario nazionale Assindacolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestici. L'INPS ha compiuto ricerche, spiega il giornale, a ritroso fino al 2005-2006 per verificare il regolare pagamento dei contributi per colf e badanti. Il problema è sorto per il mancato aggiornamento degli archivi. E ma roba da pazzi. Evidentemente non risultava, in molti casi, la cessazione del rapporto di lavoro, che in realtà era stata regolarmente comunicata dal datore di lavoro. Una confusione dovuta anche al fatto che fino al 2009 la cessazione del rapporto di lavoro andava comunicata alle direzioni provinciali dei centri per l'impiego, uffici che magari ancora non hanno trasmesso, dopo 7 anni, la loro documentazione all'INPS. Insomma, gli archivi dell'istituto sono sporchi, non forniscono informazioni aggiornate e a farne le spese sono le famiglie che 10 anni fa hanno licenziato o cessato il rapporto con la loro domestica e che ora si vedono richiedere i contributi come se lei avesse continuato a lavorare fino ad oggi. Ho qui davanti un avviso di pagamento per 6.500 euro per gli anni che vanno dal 2012 al 2016. Si tratta di un rapporto di lavoro di 25 ore settimanali, chiuso nel 2012, racconta la Benvenuto. Per i rapporti di lavoro da 50 ore settimanali si arriva addirittura a notificare 12.000 euro. Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate in questo senso. Signori, noi nel nostro piccolo 24 mattino, ieri, subito, siete un grande sismografo che racconta l'Italia, subito era arrivata la telefonata di una persona e poi tanti messaggi che ci dicevano di aver avuto lo stesso problema. Quindi Roma, Milano, se vi arriva la cartella, non cadete stecchiti e stramazzati a terra, ma fermate tutto perché forse si può rimediare. La cosa assurda però sono queste direzioni provinciali che in 6 anni non trasmettono all'INPS questa informazione, siamo al ridicolo, vabbè. Allora, Corriere dello Sport, ce li ho così un po' la rinfusa. La Roma su Badeli, Lazio tutti uniti per la Champions. Higuain prova il recupero, Mertens pronto a sfidarlo. La Verità, quotidiano di Maurizio Belpietro. Che buco fa la Rai con Fazio. I fallimentari ascolti del super pagato conduttore costringono la TV di Stato a rimborsare gli investitori pubblicitari. Disastro firmato dagli uomini paracadutati da Renzi, a partire dal direttore generale Orfeo. È il pezzo proprio di Maurizio Belpietro. Poi c'è un corredo di Sabina Biraghi con lo schema che spiega quanto è calato lo share. Repubblica, biotestamento, accordo per il sì, ecco le nomine, corsa per approvare la legge con il voto del Movimento 5 Stelle a favore, Consob, Gentiloni punta su Lucrezia Reichlin, manovra 50 milioni alle vittime delle banche, il fondo di Roberto Esposito, il vincolo fra il diritto e la vita. Però c'è anche la fotografia di questo signore un po' buffo che terrorizza il mondo, il missile più potente di Kim, fallita la mediazione cinese. Il Sole 24 Ore, Brexit, allarme derivati dalla Banca d'Inghilterra, rottamazione, la rata di domani slitta forse al 7 dicembre e poi finalmente da domani il manuale del nuovo risparmio, 12 fascicoli per investire informati, così vi abbiamo già dato l'allarme. Un'inchiesta, dopo i voucher più lavoro a chiamata ma cresce il nero, di Claudio Tucci. Un'altra notizia di cui forse discuteremo, invasione a 5 Stelle, Grillo da 1000 euro a immigrato, non si tratta proprio di Grillo, però della Raggi, che finanzia le famiglie che sono disposte ad accollarsi un richiedente asilo. Poi vi spiegherò perché probabilmente è interessante, farà discutere. Corriere della Sera, l'Italia non fa figli, meno 100.000, giusto porre l'accento su questa altra notizia di ieri, il caso bonus bebè, il calo dei neonati in 8 anni, manovra in aula, la paura di futuro e il fondo di Antonio Polito. Il Tempo, i furbetti del terremoto, ancora orrori da Rigopiano, 100 indagati, 100 fascicoli per le false residenze da matrice. Tutte le cifre del flop ricostruzione, mancano oltre 2000 casette. Ale! La Gazzetta dello Sport concentrata, e qui c'è una discussione con il nostro regista. Ehi, ringhia davvero Gattuso, Milan, non sono un traghettatore, voglio gente che corra. Ecco. Valerio è scettico, io vi dico che Ringhio farà la sorpresina. Il Messaggero, Bitcoin, miracolo o bolla, il soppalco di apertura, ma poi il titolone vero e proprio, anche se non è tecnicamente l'apertura, famiglie, la giungla degli sconti, manovra, il bonus bebè diventa strutturale ma l'importo sarà dimezzato dal 2019 e l'effetto degli aiuti viene disperso da troppe norme, via libera al mini taglio del super ticket. Il mini taglio del super ticket lo avevamo raccontato anche ieri, ma che è il mini taglio? Ma Avvenire, pace rispettando tutte le minoranze, nell'incontro con il premio Nobel Aung San Suu Kyi in Myanmar il Papa sottolinea che la riconciliazione parte dalla tutela di tutti. L'editoriale, La Fonte del Bene, Stefania Falasca. Libero, crescono matrimoni e tradimenti virtuali, ma la foto di prima, ne parleremo, è Mister Friuli, che come sapete è un omone di colore e c'è polemica su questo, ovviamente anche da parte di Libero. Il Fatto Quotidiano, fine legislatura, ultime leggi, fine vita forse, fine vitalizi mai, è una specie di gioco di parole, ma avete capito che cosa interessa. Il Foglio, la guerra dell'Italia e i suoi figli, interessante, Giulio Meotti, anche loro concentrati su questo calo di natalità. E poi i populismi si battono con l'armonia fiscale, il fondo di Cerasa. La Stampa, un bimbo su tre figlio di genitori non coniugati, quindi un taglio diverso dell'Istat. E la foto centrale, la battaglia per cambiare il calcio. Chi? Filippa Lagerbach. Ci sposiamo, ma stavamo per lasciarci. 7:28, via col meteo e poi andiamo a leggiucchiare. curiamolo, leviamogli il metadone. Mattino. La mia Golf, che 11 anni fa ha deciso di tornare al suo paese, abbiamo risolto il rapporto di lavoro con una comunicazione come previsto a IMSS, con la raccomandata, eccetera, tutto in maniera regolare. Oggi, dopo 11 anni, l'IMSS pretende che io gli faccia avere una copia di quella dichiarazione, una copia di quella raccomandata, perché altrimenti mi chiede di pagare una penale, mi chiede di pagare tutto quello che secondo lei io non ho pagato da quella data in poi. No, mettiamo i Rolling Stones, cambiamo un po', perché ora ci dobbiamo divertire. La Fornero va a vedere il film sugli esodati, con gli esodati è uscita viva, quindi un buon segnale di convivenza umana. E soprattutto voglio partire da questo Mister Friuli, ripartiamo da qua. C'è polemica, la foto di un atleta, di una statua, un bronzo di Riace, però nero, con una fascia. Mister Friuli, Venezia Giulia 2017. E scherza, ironizza, Libero con Gianluca Veneziani. A chi si fosse confuso, chiariamo subito che non si tratta del nero superdotato che spopola su WhatsApp, ma dobbiamo anche comunicare, soprattutto ai puristi e ai nostalgici, che non rappresenta neppure il prototipo della razza Piave. Alun Diouf, 18 anni, senegalese di origine, residente in Italia, a Cividade del Friuli, è stato appena detto nuovo Mister Friuli Venezia Giulia. E cosa vuoi dirgli sulla bellezza? Pure da maschi, dobbiamo ammettere che con quel fisicaccio lì, 1,98 cm di altezza, corazzati da muscoli, manco maciste ed Ercole, ai tempi del Colossal hollywoodiano, la vittoria se l'è meritata. E quindi noi, scrive Veneziani, ecco lì Rolling, che pure ci sbattiamo in palestra per avere un aspetto almeno decente, non possiamo che rosicare. Semmai però sono comprensibili le obiezioni di chi dice che se il criterio era scegliere una bellezza caratteristica dei Friuli, insomma aspetto mitteleuropeo, accento del nord-est, cognome tipo Furlan e Tomat, beh allora non ci siamo proprio. Così come se non ci siamo, perché l'idea era di scegliere un bel cittadino italiano, visto che Diouf vive in Italia da soli 5 anni, ma è un residente con il permesso di soggiorno. Allora, voglio subito dire come la penso su questa vicenda. Dietro le notizie vediamo sempre l'ideologia. E allora pensiamo che anche Mister Friuli sia un modo per dividerci fra chi vuole gli stranieri oppure no. Io do una lettura molto più semplice. Leggo la cosa più importante a margine dei pezzi. L'organizzatore del concorso è anche un amico, un allenatore, un promotore di UF. Ebbene, quest'uomo, prendendo in giro i nostri pregiudizi, sia quelli di sinistra sia quelli di destra, ha fatto un'enorme campagna pubblicitaria al suo atleta che gioca a basket, e questa provocazione del Mister Friuli nero, secondo me, è una specie di grande lancio stampa. Ale! Rivoluzione italiana, crescono matrimoni e tradimenti virtuali. È sempre questa indagine, però letta da tutti i giornali con occhi diversi, e questa è la bellezza. In questo caso Libero la vede così. Virtuali evasioni, le nuove frontiere delle corna. Oggi gli amanti si limitano a inviarsi foto intime sui cellulari ed evitano complicazioni sentimentali. E il modo in cui Melania Rizzoli legge i dati del rapporto Istat, ma il punto grosso è in 8 anni 100.000 neonati in meno. E allora andiamo al Corriere della Sera, che ci racconta questa realtà che cambia, questa Italia a crescita zero e sempre meno. Il Corriere è molto lontano. È sempre meno in grado di far fronte al fabbisogno di cittadini che abbiamo. Dal punto di vista civile, direi è previdenziale, se no sembra che sia solo strumentale. Allora, persi in 8 anni 107.000 neonati. Anche gli stranieri, pensate, fanno meno figli. I dati Istat, il primo parto avviene dopo i 32 anni. Dentro il matrimonio ci sono il 70% delle nascite. E il pezzo di Claudia Voltatorni sul Corriere a pagina 2 non aiuta le donne, non aiuta le famiglie e quindi nascono meno bambini. E quei pochi che arrivano sono destinati a essere figli unici con mamma e papà non più giovanissimi. Questa è la foto anche della mia famiglia. Impietosa ancora una volta la fotografia del nostro paese fatta dall'Istat nelle sue analisi sulla natalità e fecondità della popolazione residente. Un calcolo che ha rilevato le nascite del nostro paese dal 2008 al 2016 e che evidenzia una curva sempre più in discesa, anche quella dei bimbi nati da genitori stranieri. 70.000 lo scorso anno, erano 78.000 appena 6 anni fa. Le donne italiane in età riproduttiva, scrive ancora il Corriere e spiega l'analisi, sono sempre meno numerose e mostrano una propensione decrescente ad avere figli, una scelta solo per pochissime, evidenzia l'Istat. L'incidenza più alta delle donne che dichiarano che l'avere figli non rientra nel proprio progetto di vita si registra fra le 40-44 anni e fra le più giovani. Si tratta però di un fenomeno molto contenuto nel nostro paese, dove a determinare l'aumento della quota di donne senza figli sono più gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dei progetti familiari che altro, colpa soprattutto della crisi economica. Allora, la tabella da leggere oggi è quella sul tasso di natalità di tutti i paesi dell'Europa, più o meno anche oltre la comunità, e sapete, il paese in cui c'è la media più alta dentro il continente è la Turchia. Siamo a 16.5. Il paese con il tasso più basso di natalità, cioè sono i nati ogni 1000 abitanti, questo è il tasso di natalità, 7.8, è l'Italia. Pensate, si passa dal 16 della Turchia, dal 13 dell'Irlanda, dal 12 virtuale della Svezia, del Regno Unito, della Francia, i paesi civili dove le famiglie sono aiutate davvero, al 7.8 dell'Italia. Non c'è molto altro da dire. Tutto qua. Allora, Repubblica ci consente di parlare di questo biotestamento. Sì, perché il biotestamento potrebbe essere l'ultima vera grande legge votata, diciamo così, dalle Camere. Perché? Perché c'è la possibilità che lo voti anche 5 Stelle. Ma qual è il problema? L'accordo sul biotestamento rende sempre più lontano lo Ius Soli. Tommaso Ciriaco da Roma, Repubblica, pagina 2, ci spiega, col contributo dei 5 Stelle i numeri ci sono, sulla legge per la cittadinanza pesa la condizione del Colle, Gentiloni non deve rischiare e quindi la fiducia è impraticabile. E non leggo la battuta di LK contro Salvini, che è veramente troppo perfida. E la mia domanda è: sì, certo, Salvini forse con la sua battuta penso ai vivi ha trascurato, ha trattato male tanti che sono fra la vita e la morte e sono anche loro vivi, ecco, questo è ciò che bisogna dire. Però c'è anche un'ipocrisia per cui in questi anni nessun altro si è occupato del biotestamento. Allora nessun altro, diciamo, l'ha messo nell'agenda della politica, sì, parlamentare in commissione, ma allora forse sarebbe il caso di dire: dove eravate tutti voi che dite che vi occupate dei vivi? Domanda. E parlavamo del glifosato ieri, che io ho ribattezzato glifosato, pensa come stavo, e ci sono due opinioni opposte sempre su Repubblica. Allora, un pezzo critico con la normativa europea che allarga i margini e i tempi di utilizzo di questo, come dire, ingrediente dell'industria agroalimentare. Però c'è un'intervista molto interessante di Divella che dice: stop agli allarmismi sulla pasta italiana, è fatta con grani super controllati. Trattandosi di Vincenzo Divella, l'amministratore delegato di uno dei pastifici più importanti italiani, vale la pena di sentirlo, perché siamo a favore della trasparenza dell'etichetta di origine, ma le nuove norme, così come sono state formulate, non sono chiare. Siamo i primi a volere che a scegliere sia il consumatore, ma lo deve fare sulla base di informazioni corrette. E il glifosato, gli chiede, è usato anche per far maturare il grano? è vero solo per il grano canadese, per quanto ci riguarda da un anno non ne usiamo più e importiamo da Arizona e da Australia. E non usano pesticidi loro? Chiede Cristina Nardotti, sempre pagina 23 Repubblica. Lo analizziamo bene e comunque chiariamo una cosa: il glifosato è usato anche in Italia quando la spiga non è ancora matura come diserbante, perciò non incide sul chicco. Quindi, se avete, come dire, dei dubbi, se volete seguire questo dibattito, noi ogni giorno quello che accade ve lo diciamo. E ci fermiamo per le strade, l'ultima segnalazione ancora sul giornale a pagina 17, le nuove intercettazioni, ne ho visto un quintale oggi su Tiscali, che sta praticamente pubblicando gli atti del processo, ma sul giornale vedo quella che ieri ha indignato: chiedono aiuto dall'hotel di Rigopiano, la gente sta morendo, sì andiamo, così poi ci andiamo a fare un bel bagno nella SPA. Questo era il tono di chi doveva soccorrere. Possiamo dire sempre un po' sommessamente: che schifo, strade. Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, no. Io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Mattino. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. E allora dicevo, meno male che c'è il sole che tiene questo bollettino di guerra. È un bollettino di guerra che è un racconto sul paradosso e la follia dell'Italia. Ma ieri vi avevo letto un pezzo del Sole che ci diceva, seguendo la cronaca, che la rottamazione scadeva domani, cioè oggi. Oggi devo leggere questo titolo: rottamazione, la rata di domani slitta forse al 7 dicembre. Giovanni Parente. Cioè, è una follia, signori, ma mettete dei limiti, è tutta una corsa, una burocrazia da inseguire, servono le mappe, serve lo scadenzario, ma pensate che cos'è fare il commercialista oggi, cioè una sofferenza, e vabbè, questo accade, per fortuna che Giovanni Parente ce lo spiega a pagina 6 del Corriere della Sera: slittano al 7 dicembre sia il recupero delle prime due rate che quella di novembre. La conversione del decreto legge fiscale corregge le scadenze e riapre i margini della regolarizzazione. Questa è l'unica notizia buona. Atteso oggi il voto di fiducia alla Camera verso il via libera definitivo domani. E speriamo che sia vero. Allora vi segnalavo sul Sole Claudio Tucci a pagina 21 che cosa succede dopo i voucher, perché spesso facciamo delle grandi guerre di opinione, di dibattito, eccetera, e poi uno si dimentica che cosa accade dopo. Il dopo voucher, o meglio la riforma del voucher, non decolla, e ce lo dice il giornalista del Sole 24 Ore dragando i numeri dell'INPS, che evidenziano una partenza fiacca del libretto di famiglia. Rapporti a chiamata e part time invece sono in crescita esponenziale. Non ci vuole molto, dico io, a immaginare che ci sia stato uno slittamento. Allora, ecco come parte l'inchiesta di Claudio. Ho un'attività di ristorazione e alcuni caffè nel centro di Firenze. I picchi di lavoro sono nel fine settimana, legati alla stagionalità, e oggi sempre più difficile prevedere, visti i flussi last minute e il turismo orientato da eventi, ma anche da semplici fattori atmosferici. Se prima potevo contare sui voucher, adesso per alcuni impieghi c'è il lavoro a chiamata, per altri più nulla. Il nuovo strumento, il contratto di prestazione occasionale, troppo oneroso, complicato, provi lei a rivolgersi a una commercialista, a un consulente del lavoro, in orari notturni o la domenica, non risponde. Aldo Cursaro lavora da anni nel settore della ristorazione e del turismo ed è anche vicepresidente vicario della FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi sarebbe. Per lui la scelta del governo di abrogare la scorsa primavera i buoni lavoro è stata miope, spiega. Basti pensare, pure a discoteche, alberghi, stabilimenti balneari, il voucher consentiva di far lavorare assistenti, bagnanti, cuochi, chef in modo semplice e nel rispetto delle regole. Cosa accade ora? Che molte imprese, specie piccole, se prima utilizzavano 10 persone attribuite come buoni, adesso firmano 4-5 5 contratti a chiamata al massimo. Allora, se volete sapere come si sta evolvendo, ebbene, andate. La segnalazione incognita derivati per le banche inglesi è Il Sole a pagina 3, il pezzo di Nicole degli Innocenti, incognita derivati perché l'accordo da 45 a 55 miliardi fra Unione Europea e Regno Unito sul conto della Brexit è lì che galleggia. Allora, l'ultima cosa importante di questo pezzo della rassegna stampa è la notizia dello sciopero all'IKEA. Il Messaggero lo mette in prima pagina, è un caso che ci farà discutere. Insomma, una mamma disabile aveva degli orari che le consentivano, una mamma, scusate, di due bambini, di cui uno disabile, che gli consentivano di accudire i figli. Ebbene, gli hanno cambiato il turno, lei ha chiesto più volte disperatamente che le restituissero il turno che faceva prima, che le consentiva di lavorare e di prestare anche gli obblighi genitoriali della 104, l'assistenza dovuta, accompagnare i bambini a scuola, eccetera. Non gliel'hanno dato e l'hanno. E lei ha fatto un gesto forte, cioè ha assunto i vecchi orari di lavoro ed è stata licenziata. In solidarietà nei suoi confronti, certo con la Svezia non siamo fortunati in questo periodo, sono scesi in campo tutti i suoi compagni di lavoro che hanno scioperato in sua difesa. Che cosa bisogna fare in questi casi? È tutto vincolato? Questa notizia la leggo con quella di un'altra protesta nella Bergamasca, perché ci sono dei lavoratori lì che non vogliono lavorare il giorno di Natale. È giusto? È sbagliato? Ditecelo voi. Bene, mitragliamo. Tassisti. Ogni volta che attaccano i tassisti bisogna pensare che professione è. Allora, su Repubblica, pagina 26, quanto si rischia stare sulla strada, essere esposti alle follie della gente. C'è questa foto che non merita neanche un commento, è la foto di uno sportello con un rivolo di sangue, una foto semplice però sconvolgente, perché a questo tassista, un culturista un po' fuori di testa, ha strappato un orecchio a morsi. Mamma mia. Verità, pagina 13. Uno studio indaga il legame fra l'uso compulsivo dei telefonini degli adolescenti e la depressione. Attenzione, da padre, ve lo segnalo, perché va letto almeno per capire. Via alla Cina in treno, un treno diretto, ma voi direte è uno scherzo? No, è un treno che veicola soprattutto merci, 11.000 km, 18 giorni di viaggio. Però il mondo anche così diventa piccolo, le ferrovie sono la civiltà. Su Repubblica, pagina 44, una grande intervista a Steven Spielberg e il suo appello: aiutatemi a salvare il cinema da Netflix. Poi uno studio serio dell'Economist che ci dice il 2018 è l'anno della felicità. Ale! Un'inchiesta riapre una vicenda, questa veramente folle. Martina Rossi, una ragazza che era morta in gita, hanno detto è caduta dal balcone, si è buttata. No, la famiglia non ci credeva, il padre e la madre hanno bombardato di prove, di indagini. Gli inquirenti della procura di Arezzo hanno trovato delle nuove prove e adesso sembra che fosse un omicidio che mascherava una violenza sessuale. Piccole infamie italiane. Ci sentiamo fra poco con i cani e con i gatti, giornale radio.